Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Riding the dawn. movimenti, non è vero? Ma certo, hai visto le tende alzate? E lui che camminava nel corridoio e poi per strada e poi giù nel cortile. L'ho visto uscire e poi andare a prendere i fiori. Ma trovi logico che avrebbe agito così allo scoperto? Non avrebbe piuttosto abbassato le tapparelle per non farsi vedere? E lì sta la furberia, nel darsi quest'aria di indifferenza. E invece tu non sei furbo proprio per nell'agire niente. Come se niente un fosse. Un assassino non ostenta così il suo delitto davanti a una finestra aperta. Perché no? Poi tanto per cominciare, forse qualcosa di molto più sinistro sta accadendo dietro altre finestre. Dove? Ah. Lasciamo stare. Ricominciamo tutto quanto da capo, Jeff. Raccontami quello che hai visto. E che cosa potrebbe significare? Seconda parte di Eclettica edizione speciale, perché se è vero che la voce che state sentendo in questo momento è come al solito quella di Giulio Capperdoni, però le scelte dei film, le scelte dei libri sono di altri, come anche le voci delle letture. Tutte o quasi le voci di Rock FM sono state convinte a partecipare a questo Canto del Cigno nella 24 ore non stop di Rock FM, che vi ricordo stasera alle 18 spegnerà il segnale. Marco Garavelli ha scelto la finestra sul cortile. Non so se avete riconosciuto lo sprazzo cinematografico che ci siamo sentiti prima dei Saddlefish, perché abbiamo aperto con musica italiana questa seconda parte. I Saddlefish appena ascoltati con Summer Drops e prima ancora i Joycat con Shake Your Shape, fra l'altro tutti e due questi gruppi provenienti dalla stessa città. E proseguiamo ora, prima di arrivare a scoprire quale libro Marco ha scelto, con un gruppo neozelandese. Loro si chiamano Shocking Pinks e questa è Want You Back. Want you back. Buonasera, riveriti spettatori. Benvenuti. Benvenuti al nostro spettacolo. Abbiamo moltissime eccitanti sorprese in serbo per voi nel corso dei prossimi due giorni, in cui i nostri illusionisti, i nostri maghi, i nostri prestidigitatori tesseranno i loro incantesimi per divertirvi e intrattenervi. Frase iniziale tratta da L'uomo scomparso di Jeffrey Deaver. 1, 2, 3, 4, 1, 2. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. La la la. Come ti va, vecchio ponchia? Va, va. Quella è Orione, la vedi? La spada di Orione. Betelgeuse. Lo sapevi che sono tutti nomi arabi? Sembra di essere in Grecia, come 10 anni fa. Uguale. Sì, ma adesso abbiamo 30 anni. Dormiamo ancora per terra. Ma è perché siamo gli ultimi dei moicani, Paolo, dai. Ci hai mai pensato al fatto che saremo gli ultimi che hanno i ricordi in bianco e nero? Le foto dei nostri genitori, quelle delle vacanze, i programmi della televisione. Ma chi se li ricorderà più? La nonna del corsaro nero. Belfagor. Cazzo, Belfagor. Siamo una tribù in via di estinzione, altro che balle. Vediamo un po' se indovinate. Secondo voi chi è che ha scelto Marrakesh Express? È proprio quello spezzone, quello che ho fatto ascoltare un brano fa prima dei Siberian e Belgian Beer and Catholic Girls. Secondo me in molti avete sbagliato, perché questo film è stato scelto da Max De Rio. Max De Rio che sta per arrivare anche con la lettura del suo libro e secondo me vi stupirà anche con quella, però prima di arrivare a quella lettura vi devo far ascoltare uno dei pezzi più belli, secondo me, che sono passati nell'ultima stagione di Eclettica, una band inglese il cui nome è Time, Space, Repeat, e questa è The End of the World. We'll be right back. Nel XVIII secolo visse in Francia un uomo tra le figure più geniali e scellerate di quell'epoca non povera di geniali e scellerate figure. Qui sarà raccontata la sua storia. Si chiamava Jean-Baptiste Grenouille e se il suo nome, contrariamente al nome di altri mostri geniali quali De Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, eccetera, oggi è caduto nell'oblio, non è certo perché Grenouille stesse indietro a questi più noti figli delle tenebre per spavalderia, disprezzo degli altri, immoralità, impietà insomma. Bensì perché il suo genio e unica ambizione rimase in un territorio che nella storia non lascia traccia. Nel fugace regno degli odori. Questo è l'incipit di Il profumo di Patrick Susskind. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone, hold on. If you feel like letting go, hold on. When you think you've had too much of this life, everybody hurts. you're on your own. In this life, the days and nights are long. When you think you've had too much of this life to hang on. Well, everybody hurts sometimes. Everybody cries. And everybody hurts sometimes. Чермане вчитав буча до будити пою. Папи, а то вон, а ю сюди гад. І парте до чермане, кулись кора. А ви вас обрене, чи де гос, а гос, а раді кой касет, кеда, а пен, тав. А ю бурне на гос, а ребрене на джоне, а ю сюди буду бати гос, чи де гос, буду бати, і борт, а пен іде буде. Тав. А ю бурне на, чи де буду бати гос, і чи де бурне на тупан, чи буду бати гос, ти но. А ю бурне гос, буду бати на лайчи, і бак, пакет до джоне, супермаркет, ніен, пен до джоне, буду бати гос, чи буде. Arrivare io, arrivo io non orbit, arrivo le cose. Io arrivo, usa di andare riuscito, va bene. Un parabrezza, io quello che ti dice che sta, cioè non lo parla lì. A poco siamo io dico che io già dico per favore, io non dico c'è, non vado disgraziato che non ne volevo dire niente, no. Allora c'è potevo dire, ci dovuto trovare. No, io sono stato portato nel centro per cosa. Allora mi scomodo in numero di pani nel centro. Sapete che dico? Sapete che dico? Che andava a pia tutte quante nel culo, va bene. Arriva di. We'll be right back. Mi sono accorto di aver detto una imprecisione poco fa, quando ho definito il brano di Time Space Repeat una delle più belle canzoni di Eclettica dell'ultima stagione, perché mi sto accorgendo, minuto dopo minuto che passa, che questo è in pratica un The Best Of, e quindi ogni canzone è una delle più belle che sono state trasmesse nell'ultima stagione di Eclettica. E poi il tutto impreziosito non tanto dalla mia voce, ma dalle altre voci, dalle scelte delle altre voci. Tutto questo per salutarvi nelle ultime ore di vita di Rock FM. Ho voluto chiudere in questo modo, con un'Eclettica dove sì, io sono presente, ma dove sono presenti soprattutto gli altri, e dove gli altri vi stanno raccontando qualcosa di se stessi che probabilmente non vi avevano ancora raccontato fino ad oggi, nonostante voi li ascoltaste tutti i giorni, perché con la scelta del loro film e con la scelta del loro libro stanno dicendo molto di se stessi. Ci siamo appena ascoltati, a proposito di belle canzoni, My Robot Friend con Robot High School, che aveva seguito un altro film che secondo me non riuscite ad associare alla persona giusta. Chi potrebbe aver scelto quel monologo da Bianco, Rosso e Verdone? Mox Cristadoro. E infatti, subito dopo The Pterodactyls, che assieme a Kimia Dawson ci stanno per presentare The Vices, ci sarà anche la lettura dell'incipit di Mox. I'll start with you. If you start with me, we can start together, maybe start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I want to alliterate with you. I want to sound clever. We don't quite fit. We don't really rhyme. But we got a good meter going when we grind. We slant to the beat. And we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. Other.